con Oscar de Summa, Rette parallele sono l'amore e la morte. Oscar è qua con noi, buongiorno e bentornato. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Allora, questo lavoro che porta un parallelismo tra due identità veramente molto forti. A questo punto anche una casualità arriva all'improvviso a darti ispirazione. Adesso ho portato linee veramente generali in tutto ciò, ma ci puoi far entrare in questo spettacolo con le tue parole? Certo, allora questo spettacolo è un po' diverso da tutti gli altri, non ha una narrazione lineare, proprio perché lavoro col tempo e con lo spazio. È una tessitura di tre trame diverse che si intersecano fino ad arrivare allo stesso punto. Da un lato un ricordo lontano che mi arriva alla memoria di una storia d'amore mancato al tempo in cui io vivevo ancora in Puglia, e mentre io sto scrivendo di questa cosa mi arriva l'informazione che la persona di cui sto scrivendo è morta esattamente lo stesso giorno in cui io ho cominciato a scrivere. Quindi da qui parte questo primo binario, no, tra la morte e l'amore, cioè io stavo raccontando una storia d'amore, invece mi arriva una notizia di morte, e attraverso la fisica quantistica cerco di tessere insieme questi due aspetti, il mio presente, la mia scrittura al presente e questo ricordo lontano invece, no? E cerco di dare in qualche modo una spiegazione. Naturalmente una spiegazione non c'è, perché ciò che succede dentro il cuore di una persona è, come dire, è indicibile, no? Ma si fa un primo tentativo, così, una specie di analisi insieme al pubblico, nel tentativo di mettere insieme queste cose, questi tempi e questi spazi. Quindi abbiamo un aspetto umanista e un aspetto scientifico in tutto sì, ciò. Scientifico, ma sempre dal punto di vista umanista. Esatto, sì. C'è proprio un libro che si chiama La fisica quantistica dei poeti, al quale mi sono ispirato, che appunto fa vedere come poi molte delle cose che ci sembravano incredibili forse qualche decennio fa, pur rimanendo inspiegabili, comunque sono scientificamente comprovate. Ecco, quindi è una specie di piccolo esperimento col pubblico, no, che facciamo. Poi c'è un esperimento molto interessante col quale io apro, che senza stare entrare nel troppo nei particolari, però diciamo, questo esperimento della fisica quantistica racconta e dimostra il fatto che se c'è un testimone presente all'esperienza, questo testimone cambia il valore dell'esperienza, ed è quello che facciamo in teatro in realtà, cioè se no il teatro ce lo faremmo in cameretta, no? Invece lo facciamo esatto, siccome lo facciamo col pubblico, nel momento in cui il pubblico arriva cambia l'esperienza che avviene, e dipende appunto da questa relazione, no, tra l'attore e lo spettatore. Tutto questo quindi è anche una riflessione non solo su questa storia mancata, non solo sulla mia scrittura, ma anche sull'esperienza stessa del fare il teatro e del vivere il teatro. Della modalità, appunto. E il caso non esiste allora, a quanto pare, visto anche questa esperienza che hai vissuto. A quanto pare no, ma forse sì, cioè nel senso che la cosa che viene da dirsi è che quello che deve accadere accade, nel senso che noi possiamo un po' barcamenarci, ma poi ci sono come dei nodi nella nostra vita dai quali dobbiamo passare per forza, no? Sicuramente le esperienze di dolore che tutti passiamo, a partire dai propri cari, dalla perdita dei cari, insomma tutto questo sono tutte tappe obbligate, poi come noi reagiamo e cosa impariamo da queste esperienze sicuramente fa la differenza. È una storia vera, questo lo ribadiamo. Ma quasi sempre, come sempre, diciamo nei miei spettacoli, soprattutto monologanti, parto sempre dai dati reali, no? solo perché mi faccio le domande forse che tutti un po' ci facciamo su come interpretare la nostra realtà, ecco, sostanzialmente è questo, quindi come dare valore a quello che abbiamo, qual è l'esperienza profonda della vita proprio. Collaborazioni? In questo spettacolo sono coprodotto da Atto 2 e da ERT, Emilia Romagna Teatro Nazionale, no? E poi diciamo così, chiaramente qui abbiamo le solite musiche, la scena e le luci sempre del mitico Matteo Gozzi, e poi normalmente io prima di arrivare alla scena comunque faccio molti incontri anche con scienziati del CERN, abbiamo parlato di appunto degli esperimenti che fanno, dove ormai su ogni esperimento ci sono più di 10.000 persone, sì, che lavorano, quindi è cambiato completamente il sistema. La cosa importante sempre è che è un'esperienza teatrale, nel senso che questi giochi scientifici passano sempre attraverso l'emozione. Questo per me è fondamentale sempre nel mio teatro. E quindi hai fatto bene a dirlo, che non si pensi appunto, non di è una spiegazione a... esatto a un convegno di esatto no non è un convegno ma è una storia che passa attraverso sempre e solo le emozioni, cioè attraverso quel canale lì che noi cerchiamo di affondare, di andare in fondo a delle domande esistenziali. Grazie e buona giornata. Grazie a te, ciao, a presto.